elettromagnetica, surfando sull'onda più anomala. C'è gente che smuove e colpisce le cose nella radiofrequenza che oscilla per me. Sveglia la notte, poi riscaldano il giorno, ritrovo un contorno e saturo pregno e degno di me. Radio e stazioni conducono e magneticamente azioni, forse perché radio e stazioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e stazioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e stazioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Questo è Jolly Roger, oggi abbiamo cambiato sigla e niente, partiamo con questa nuova puntata, penultima puntata per noi, poi ovviamente tutti al mare, almeno si spera, e salutiamo tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci supportano e ci sopportano. E salutiamo il nostro amico Matteo che è in quel dell'Egitto a rinfrescarsi i lunghi pensieri invernali. Iniziamo questa puntata appunto con un suo messaggio e poi ritorniamo qui in diretta su Jolly Roger. Sono Matteo, sarò lì in Egitto. Ciao Luca, ciao! Ciao! Beh già, tra me e TM non c'è voluto niente. Tra me e TM so it's easy to fall in love. Non c'è voluto niente. It's so easy to fall in love. Sale giù da mare, sale giù, porta l'amore, neghi apre l'ubore in maggiore, Luca in su lupe, ti e lascia stare qui, giù cade nide fare, veggia per un giorno, stiamo sulla mente, io e TM. Non parare a quanto sul tuo bando, perché a capo porto ancora tutti i ricordi della prima fiata. Quando non me cano uscivi ancora, già mi fatta male, foto cadi e pubblicavi dopo una serata. Lo tempo passa, ma già luce non sei stuta. Amica mia, compagna mia, che mi ispiri le rime. Lo film a capo non ti aiuta, per scene semplici alla fine. Per innamorarmi di te, non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante, che per innamorarmi di te non c'è voluto niente, sai ci vuole molto più tempo per. Girl, you know that it's easy to fall in love with a girl like you. So hot like the summer, cold like the winter, long time I watch a smoke at your window. Bad like a poison, good like a sister, wild like the wave through the sea of September. It's uncertain what you're searching for, I can see you now realize love is hurting, but you still want more and more. She don't know who I am, even if she called my name. This life is poor, but she's always got to miss you. Now strike no pause. It's easy to fall in love. Innamorarmi di te, non ci ha voluto niente. Un vero motivo non c'è. E questo è l'importante. Che per innamorarmi di te, non ci ha voluto niente. Sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know I said it's easy to fall in love with a girl like you. Chi sta vicino non lo sa. Qual è la chiave per entrare in tutti i sogni che tu forse non mi vorrai dare? Risparmiami quei soliti, non ti conosco ancora bene, perché nel nostro caso non c'è voluto niente. Per innamorarmi di te non c'è voluto niente. Un vero motivo non c'è e questo è l'importante. Che per innamorarmi di te non ci è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know I said it's easy to fall in love with a girl like you. Per innamorarmi di te non ci è voluto niente. Un vero motivo non c'è e questo è l'importante. Che per innamorarmi di te non ci è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know I said it's easy to fall in love with a girl like you. Non c'è voluto niente, un vero motivo non c'è, e questo è l'importante. Che per innamorarmi di te non c'è voluto niente, sai, ci vuole molto più tempo per. Girl, you know I said it's easy to fall in love with a girl like you. E ritorniamo in diretta, inizia ufficialmente l'estate, un caldo che veramente in questa settimana si è fatto sentire in tutti i modi e in tutte le forme. Infatti noi, anche se fermi, sudiamo, ma vi rinfreschiamo un po' questo venerdì pomeriggio. Salutiamo ancora tutti gli amici e tutte le amiche di Gemini Network, di Radio Grad, che ci ripubblicano e ci rimandano tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18. Appunto, si parla, iniziata l'estate, quindi passo il microfono ad Alice, che ci racconterà i suoi consigli di bellezza, che iniziano a essere soprattutto quelli estivi. Quindi passiamo il mic e vediamo cosa ci racconta oggi. Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare delle salviette idratanti e struccanti, biodegradabili, la marca è la Nivea. E molto anche, è una marca molto per le donne e anche molto per gli uomini. E si può utilizzare, e possono utilizzare anche. Si può utilizzare anche per struccare, anche per gli occhi, soprattutto per il viso, se serve anche per il viso, non solo per gli occhi. Levano molto bene tutti i tipi di make up, è anche un trucco, è anche waterproof, è anche questo è un altro trucco, e in più, oltre che a levare il trucco, detergono a fondo la pelle e la idratano il tessuto di cui sono fatte al 100% di tessuto di origine vegetale. Lunedì 24 giugno, sciopero di 24 ore per i lavoratori del gruppo Hera nei settori elettricità, di igiene ambientale. Sciopero di 8 ore nel settore del trasporto merci su rotaia, indetto Filt CGL Filt Will. Questo come si legge? Will. Ah, ok. Perfetto, quindi oggi abbiamo parlato anche di sindacati, in parte, esatto, visto che da oggi parleremo anche dei vari scioperi che si terranno nei vari settori, grazie ad Alice. E si scrive Will? Cosa? Aspetta un attimo, aspetta, Ali, che mo io già non ci vedo, scusate, sono... Esatto, si parlava di sigle sindacali, questa è un'altra sigla sindacale. Ok. Perfetto, ringraziamo Alice soprattutto per questi consigli appunto molto estivi, visto che appunto le salviettine, cara signora, sì. Di trasporti personali, compagnie e ferrovie italiane, CFL, si ferma venerdì 28 giugno dalla mezzanotte alle 8. E il 20... E non fate molto ritardi per i treni, anche Trenitalia Alta Velocità, Trenitalia Alta Velocità FL1. Per una mia amica che si chiama Giorgia Magliocco. Non fate questi ritardi per Formia, Greta, da Roma Termine a Formia. Va bene, quindi noi qualche buon consiglio alle FS l'abbiamo dati, anche se era più una forma di protesta, perché giusta, tardi, perché esatto, durante l'estate purtroppo il problema delle grandi città, mo parliamo noi di Roma, ad esempio abbiamo parecchie linee, soprattutto metro e autobus, e finite le scuole iniziano inspiegabilmente a diminuire, quindi comunque si creano dei disagi per chi si muove con i mezzi, perché non tutti hanno la possibilità e la voglia di muoversi con i propri mezzi, quindi purtroppo si deve fare anche conto di questi problemi, e speriamo appunto che questo giubileo che si avvicina piano piano porti qualche cosa di buono. E noi andiamo con un pezzo che ha portato la nostra amica Alice, e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene al mondo in fondo, un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno, mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme. ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, cambio al mic. La nostra amica Alice ci ha dato i suoi consigli di bellezza. Abbiamo parlato anche di scioperi, di sindacati. Abbiamo parlato con Alice anche di i consigli sui ritardi e le varie soppressioni dei mezzi di trasporto romani, e non solo, ovviamente. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che fra ieri e avanti ieri hanno sostenuto la prova di maturità. Ho accanto a me il nostro amico Luchino, che finalmente ha finito la scuola ed è stato promosso, quindi un ottimo traguardo. È stato giorni un po' in attesa, ma appunto l'attesa è meritata, nonostante l'ansia varia accumulata in questi giorni per sapere se è promosso o bocciato. Allora passo il mic al nostro amico Luchino. Buonasera a tutti, io sono Luca e sì, sono stato promosso, sono molto contento. Il prossimo anno sì, farò subito lo stage dopo aver iniziato scuola, quindi il mio prossimo anno sarà l'ultimo. E che volevo dire, domani sera andrò... È iniziata l'estate, quindi possiamo dirlo, cioè ufficialmente oggi inizia l'estate, quindi puoi dire anche cosa farai in questa estate. In quest'estate io andrò in piscina a tuffarmi, andare sott'acqua, spero di andare al mare e ovviamente spero di andarci con mia zia, però non so se ci potrà andare perché si dovrà fare un'operazione che mi dispiace tanto per quello che gli è successo, e quindi io spero di andare al mare e andare a fare tanti tuffi. Io voglio andare anche in piscina con Chiara, con Pietro, voglio andare con tutti in piscina perché l'estate è divertirsi. Che fai? Vai a fate... una serata andare al mare Oster, che ci vai, meglio di sì, no? Esatto. Poi appunto questa è la nostra penultima puntata, settimana prossima saluteremo e ci rimanderemo come nelle migliori scuole a settembre. Ci saranno tante le novità, ma noi come gruppo staremo comunque core a core in questa calda estate, quindi ci troverete nei parchi, come dice il nostro amico Luchino, anche nelle varie piscine romane, soprattutto del terzo municipio. E poi sì, si spera di farsi qualche giorno di mare tutti quanti insieme. Detto questo, passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo con il nostro amico Luchino. Fammi un check, scrivimi su direct se sei buona, anche di persona. E la foto poi non si ridimensiona. Talmente boss che dovrei stare a Playa d'Embossa. Talmente hot che se ti scrivo prendi la scossa. Ti seguirò, non lo so, forse metti foto di borse fuori città le settimane scorse. Mentre cammino suona la mia collanazza, ed è un pezzo che mi WhatsApp, che pezzo di ragazza. Mi hai mandato foto in ogni posizione, vedi ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi sai ti toglierò il wifi, posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story, senza uscire mai fuori, per te servono anche due caricatori. Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì, ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp, senza uscire da qui. Già da mixare bello, è meglio che ti adegui, è l'era dello sharing fratello, yeah. Guardo la tua tipa e clicco aggiungi al carrello, è come se letteralmente sceda allo schermo. Tocco i giusti tasti, toccati sul touchscreen, da contatto a letto in 10 comodi messaggi. Non mi trovi più con una nota locale, da salotto parlo sporco in una nota vocale. Copro volte tatuaggi se no è finita, screenshot inoltre ad un'amica, inoltre alla rubrica, finché rete gira una foto di me che mi inoltro nella tipa. La foto del profilo in completino, la perla, appena acceso il video dico è nata una stella. Passiamo all'azione e tu sei così bitch, devo mettere il coltone se ti mando una pic del mio. Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì, ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp, senza uscire da qui. In questa nuova era. Non mi tocca uscire più di sabato sera. Non devo girare su una Porsche Panamera. Accendo il cellulare, sono già in discoteca. E giuro lo sognavo da una vita intera. Non mi tocca uscire più di sabato sera. Tutti infarinati come Antonio Bandera. Guardo tra i contatti, sono già in discoteca. Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì, ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp, senza uscire da qui. Conosciuta su Direct, sì. Primo appuntamento su WhatsApp, WhatsApp. Luna di miele su Skype. Installava. E quando ti ho bloccata, era la lettera dell'avvocato. Ti ho tolto like. Installava. E ritorniamo in diretta. Appunto, si canta tanto. Stiamo passando pezzi che cantano un po' Installava. Abbiamo passato anche Bundabash. L'estate è per eccellenza la stagione dell'amore. Saranno le temperature che si alzano, saranno anche la voglia di non stare soli e rinchiusi a casa. Però diciamo che l'estate è il periodo in cui l'amore la fa da protagonista. Detto questo, passo il mic al nostro amico Luchino, che prosegue con i suoi consigli per gli acquisti. Offerte Conad. Heineken 6 bottiglie a 3,89 euro, Abbracci Mulino Bianco a 2,79 euro, Tonno Rio Mare 7 pacchi a 6,99 euro, Conad, persone oltre le cose. Perfetto, noi ribadiamo che questa è una pubblicità occulta, nel senso che non ci abbiamo una lira, più di tanto non è occulta, è ufficiale, però va bene così. Ora passiamo a un altro pezzo che dedico a tutti coloro che hanno realizzato durante quest'anno i loro programmi su Pirate Radio. Ringraziamo appunto gli amici De Gawa e tutta la cricca di Reggae Mania. Ringrazio il nostro amico Andreone col suo Elisten, Port Royal, We Love Techno. Saluto calorosamente gli amici di Superabili con i loro radionauti, che vanno in onda tutti i martedì dalle 18.30 alle 20 circa. Prima o poi questa combo si farà, come disse qualcuno, e andiamo col prossimo pezzo. caca, radio bla bla, radio was new. Someone still loves you. Torniamo in diretta, noi qui fuori onda si parla di fistole, siamo contenti di rendere partecipi tutto il nostro ascoltatore di quello che è un problema che colpisce principalmente noi maschi, però appunto è una piaga che molte persone conoscono e che comunque crea problemi anche disagio, come stavo raccontando appunto prima. Detto questo, ritorniamo in diretta, riprendiamo un po' la normalità del discorso, passo il mic al nostro amico Luchino che prosegue con cosa vuoi, prima un racconto delle tue estati oppure direttamente con le battute? Le battute. Ehi libro, hai freddo? No, tranquillo, la copertina. Come si chiama il contadino che coltiva solo pere? Il pirivendolo. Cosa fa tua moglie? Insegna. Non ti ho chiesto cos'è? Ti ho chiesto che fa. Allora ritorniamo più in diretta, io che sento, ma purtroppo sono troppo terra-terra, non l'ho capita, ora ce la spiegherà il nostro, me la spiegherà mentre passiamo al prossimo pezzo. Down, shittily water, diddily water, diddily wow, swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Parimo killin de documentario, siamo cinematografico, sicario, un top la gamma, RS Q4 Q8, femmina rati parto lo globo, non frate ricetta, canna cappa in un mojo, su dai tu non mi è custode, 30 minuti live, anzi esattamente 30 minuti e 24, vedi a più di che sa gang che contanto, 10.000 euro solo rinda all'aeroporto, e che faccio? C'ha innamorami, innamorami, figli e papà, potessimo rasica tutto in tessera di cala, a rotto porta piccio camelli da giamma, madame, a rotto bevono vino che tu pava, e fra noi pavamo punto, rimani ma mangi punto, perché nessuno mi dà schifo quando sono defunto, faccio bagno che delfino, se mandivo sono cavere, ringraziano a te per in primis a papà e a mamma. A noi che ci dice no, fine mo, solo si guarda dove lo rinò, giuro già, oro rossi, ma che la capisci, mi devi il sinistro, funziona con l'ambo black, passo tu se me. A noi che ci dice no, fine mo, solo si guarda dove lo rinò, giuro già, oro rossi, ma che la capisci, mi devi il sinistro, funziona con l'ambo black, passo tu se me. Yeah. Fondo verde su dai tono, com'è che quando vincimo non applaudo, rindanauto, rindanata, guarda pure a chi ci applaudo, dici dici a Napoli, non sono i perché sui miei non sono i padre, ma in silenzio mi godo panorama, guidami con Panamera, se non animate, sono giochi di blocca, ma difendo ogni strada. Da ne parla di cosa faccio, penso all'avvocata. Mi dice, dice no, solo mo, prima no. Perché non tenevi mo, manche so, manche bro. E chi ci diceva no, quando no, paruca. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì. Guarda l'ora, l'orino, c'ora già, ora no. Sembra che la capisci, mi devi, si ne sto. Funziona con la mo' black, passo dos in red. A noi che ci dice no, fine mo, solo sì. Guarda l'ora, l'orino, c'ora già, ora no. Sembra che la capisci, mi devi, si ne sto. Funziona con la mo' black, passo dos in red. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, appunto me lo sono fatto spiegare nel fuori onda e ora Luchino ci ripete la battuta. Un cartello chiede all'altro, che lavoro fa tua moglie? L'altro rispose, insegna. L'altro dice, non ti ho chiesto che fa, ti ho chiesto che lavoro fa. Non ti ho chiesto chi è, ti ho chiesto che fa. Quindi, cioè, non è che ero solo io che non l'abbiamo capita, ma svariate fuori onda hanno fatto presente che non l'avevamo capita. Detto questo, passo il mic al mio amico Luchino. E che volevo dirvi? Allora, domani andrò con mia zia e con mio zio a cena, non sappiamo in che ristorante, pensavo di Bonne, se no volevo proporre a tutti voi, visto che siamo proprio di Roma, volevo proporvi un ristorante che sta nel cuore di Trastevere, ovvero il ristorante La Parolaccia. Appena entri dentro, te vanno, oh, ma che c'hai? Tieni un sacco di parolacce, infatti, io vi consiglio. Pure se voi vi arrabbiate, infatti, vi dicono un sacco di parolacce, voi appena entrate sentite uno che suona e che canta, e poi viene uno per mezzo per tutto il locale e che canta col microfono e dice parolacce in dialetto romano, insomma. Voi ci andreste? Tu, Pietro? No, ovviamente non andrei. Assolutamente no. E a sto punto io con mio zio e con mia zia volevamo andare a un ristorante che mio padre ci andava a fare le consegne, ovvero T-Bone, una catena di ristoranti che sta per tutta Roma. Io volevo andare là, infatti prenoteremo, se non sarà possibile, non sappiamo prenotato, andremo in qualche altro ristorante. E dai T-Bone si mangia, diciamo, è quasi la stessa cosa come il ristorante Figo. Che si mangiano i bistecche, si mangiano, diciamo, patate un po' croccanti, i supplì penso che li facciano, si mangiano i panini. Tu che te mangi? Non lo so, perché non ho letto ancora il menù. E perciò vedrò che cosa mi mangerò. Detto questo, passo il mic al nostro Pietruzzo e andiamo sempre in onda. Perfetto. No, volevo chiedere appunto a Luca cosa si mangia, visto che conoscendo i suoi gusti, cosa si aspetta da questa cena col parentato? Non lo so manco io, guarda. No. Però proverei a mangiarmi qualcosa, tipo, siccome mi piace il croccante, diciamo il crispy, mio padre mi ha portato delle cose tipo KFC, che è simile, che è quasi il doppio, ovvero nuggets croccanti da 12 scatole, penso no. Vabbè, quindi poi ci racconterà appunto quello che si mangerà, forse appunto qualcosa di croccante. Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi. Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i miei piani. Oh, oh, oh. Ma che cosa te ne fai dei fogli viola? Oh, oh, oh, oh, oh. Se poi li spegni da sola, se ci scende, cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no, non di subito. Vieni subito, meglio di noi non esiste, non può. Vieni subito, ci vuole un anno per capirti. Più mal di testa che vestiti, non può. Che cazzo hai, non lo so, dici no. E io per te ci morirei. soldi, adesso solo buchi nelle mani. Per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami. Spari su un cuore antiproiettile, che possa amarti come un rettile. Quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, baby. Il peggio è passato, non guardo mai indietro, ci sono già stato. Oh, io lo sapevo, tu sei una che è di passaggio come nu. Cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no. Muori subito, muori subito. Meglio di noi non esiste, non può. Muori subito. Ci vuole un anno per capirti. Più belli testa che vestiti da un po'. Che cazzo hai? Non lo so. Dici no. Se non stiamo mai insieme, non ti porto il rispetto. E dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto. E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso. Voglio fare del sesso. Ma però non mi dire di no. Non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Subito, ci vuole un anno per capirti. Più belli testa che vestiti da un po'. Che cazzo hai? Non lo so. Dici no. E io per te ci morirei. Ci morirei. Ci morirei. E ritorniamo in diretta. Si parla appunto di estate, questa è un'estate ricca, calda e piena di tante cose, di sport soprattutto. Ci stanno gli europei, ci saranno le Olimpiadi in Francia, ci saranno le Paralimpiadi che seguiremo in maniera particolare, magari provando anche a intervistare qualche amica. E appunto ieri c'è stata la nazionale italiana, proseguono gli europei, seconda partita per noi, ne parlavamo appunto ora in quel del fuori onda, nazionale italiana al di sotto di tutte le aspettative contro la Spagna, diciamo che secondo me non è scesa completamente in campo, scelte sbagliate, forse giocatori un po' stanchi da quella che è stata una lunga stagione, però insomma non abbiamo fatto una bella figura e speriamo di, insomma, di rifarci alla prossima partita. Detto questo, passo il mic appunto al nostro amico Luchino che ci va a raccontare un po' di sport, fare anche un po' la sintesi di quella che è stata la partita di ieri. Ieri abbiamo visto la nazionale azzurra che ha affrontato la nazionale roja e che purtroppo abbiamo visto che per sbaglio Calafiori si fa un autogol vicino a Gigio Donnarumma e abbiamo perso contro la Spagna. E io e a un certo punto ho detto come cavolo si fa a fare questa cosa e io mi ero un attimo preso il panico. Pensa. E niente, la prossima è che ultima ce l'avremo contro la nazionale Croazia e speriamo perché noi siamo a 3 punti e la nazionale croata sta sotto di noi e che insomma ha pareggiato 2-2 contro l'Albania e io spero che l'Italia si qualifichi per questi benedetti ottavi di finale. E come potrò ho fatto anche un po' di scommesse. Volete sapere quanto potrò vincere? No, voglio sapere le partite che hai scommesso. Ho scommesso la Germania, la Equipe de France per il picchietto, per i soldi. Ho scommesso un sacco di partite, ecco, come ve l'ho detto. Ce n'è due. Ho scommesso la Germania contro l'Ungheria, poi ho scommesso Turchia-Portogallo. E quanto? Il risultato finale? No, gol, ho detto, non, che vince la Germania e che vince il Portogallo. Così, ti piace vincere facile, allora. Io avevo detto un 2-1 Portogallo e 3-0 Germania. Turchia. E invece vogliamo parlare della partita di questa sera, che sarà una bella partita.

change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not, this may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. E ritorniamo in diretta, siamo verso la direttura di arrivo di questa puntata. E il nostro amico Luchino voleva raccontare appunto giusto due chicchette sugli europei. Ha nominato, boh, lo facciamo dire direttamente a lui, va. Ho nominato tre leggende tedesche che faranno questo ultimo europeo, che si tirano finalmente dal calcio. Marco Reus, Manuel Peter Neuer e Toni Kroos, che ormai ragazzi dobbiamo dirlo, Toni Kroos è una grande leggenda, ha vinto ben 5 Champions con il Real Madrid e una con il Bayern München. Monaco. E dobbiamo ricordare che lui è stato una grande leggenda e purtroppo gli ha detto quest'anno a Reus, che ha perso in finale contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti per 1-0 e nulla di che. Vediamo come saranno questi europei. Soprattutto ricordiamo che dovrebbe essere anche l'ultimo europeo di Cristiano Ronaldo, che insomma non sta facendo un buon europeo, almeno a vederlo, però tutto ancora in evoluzione. Detto questo, salutiamo tutti e tutte. Alcune spoiler ve li daremo appunto prossime puntate. Ci avviciniamo finalmente alla nostra 100ª puntata. La settimana prossima appunto daremo il conto ufficiale di questa che è stata per noi la terza stagione. Siamo in programmazione di una quarta stagione che sicuramente vedrà tante collaborazioni, molte cose fatte seriamente. Però appunto rimandiamo il tutto quanto a settembre, dando nomi, cognomi e indirizzi vari. Quindi io auguro a tutti un buon weekend, visto che il tempo lo permette e che inizia a fare caldo, ci ritroveremo nel traffico cittadino per raggiungere le spiagge del litorale romano. Quindi un buon bagnetto a tutti e ci si sente settimana prossima, che sarà l'ultima puntata. Ciao a tutti, ciao Matte, ci rivediamo presto e un buon weekend a tutti quanti. Ciao a tutti, sono contenta di tutto. E ci vediamo settimana prossima. Buon weekend a tutti e tutte. Noi vi lasciamo così. Senti qua. We'll be right back. c'è sempre stato, te lo dico io com'è. È una caciara, una vera boccia, una bibinara, è una cambogia. E muricare le macchine impazzite, si poi te lo racconto da meretta, mo se ride. Il grande raccordo anulare è come una giostra che gira sempre intorno. Se lo trovi incolpato poco male, ma se è bloccato ci rimani tutto il giorno. La tangenziale, lasciala sta, via un'altra strada, non ti sbaglia. Se parla dritto nell'occhio del ciclone, allora ti consiglio via la circonvallazione. Dei mezzi pubblici sono tutti pubblici, per via del prezzo della tempestività. Infatti l'autobus vanno lentissimi, solo un pochetto più veloce c'è il tram. Poi c'è la metro, buona anche quella, solo due linee, la terza è la più bella. Rimane il treno, sempre gagliardo, pare fatta apposta per chi può arrivare in ritardo. Non c'è ritorno più, io non ci voglio tornare. Di Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona. È un delirio, è una tortura, è un martirio, è una congiura, è una condanna per l'automobilista, perché ogni santo giorno lui è costretto a tornare in pista. Race! I pizzardoni sono poveracci, e a fine turno sono ridotti come stracci. E per sfogasse tu lo sai che fanno, a me personalmente a 3-4 volte l'anno. E gli semafori sono deficienti, quando te servono li trovi tutti spenti. Quando invece scorre tutto regolare, li becchi sempre rossi a intermittenza semestrale. Vedi quello, mi pare in gabbia, lui c'ha una fretta che se lo porta via. E già da un pezzo sì che schiuma dalla rabbia, fate le corna pure alla polizia. E li parcheggi son merce rara, per trovo a posto tutti quanti fanno a gara. I principianti sono una minaccia, dei pedoni sulle strisce vanno a caccia. Per motorino va piena strada, sulle due ruote lui il padrone della strada. Te per davanti, del bianco sopra e sotto, te dietro invece no. Non c'è ritorno più, io non ci voglio tornare. Non c'è ritorno più, ce l'hai mai stato, pensa al traffico di Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona. In mezzo al traffico di una grande città, io lo conosco bene, non ci voglio ritornare. Non c'è ritorno più, io non ci voglio tornare. Non c'è ritorno più, non ci voglio tornare. Non c'è ritorno più, io non ci voglio tornare. Non c'è ritorno più, io non ci voglio tornare. Grazie.